Vai maestro, prego, il maestro Beppe Del Sicchio. È un po' su però la base, che cazzo. Che se paga dal giro, che dici? Oh mamma, vedi che mi sono perso. Hai messo al mondo un figlio un po' diverso. Non ho cravatta, né giacca doppio petto blu. Perché ogni cosa in questa vita ha un prezzo. Me lo dicevi mamma e non disprezzo. Sono mignotta, dicono, e in fondo piace pure a me. Mi sono rotto di pensare a una questione organizzata l'altro posto, spero un giorno arriverà. Ma questa è proprio una missione, una potente vocazione, sì che accetto anche la carta di papà. Se vuoi l'America, per una cifra modica, striscia qua. Guanci, il mio sorriso è d'ora, guarda ed ora maglia il filo, il cuore quello no, è tutto vero, sono un jolly, un alchimista. Buongiorno amore, sarei esaurito, il desiderio che per te è proibito, sono già in vasca, eppure in saldo se mi vuoi. E adesso prendi questo bel pacchetto che dalla massa scivola nell'alto. Con Mary White ti aiuta, con lui non sbaglio mai. Oggi solo per te, prendi due paghi tre, beh che c'è. E prenditi le guance, il mio sorriso è d'ora, guarda ed ora paghi al filo, il cuore quello no, è tutto vero, sono un jolly, un alchimista. Io sono quel che sono, schiavo della mia libertà, un equilibrista puro che se ne fotte se poi cadrà. Mi rigiro nel letto, mi guardo e riguardo allo specchio, quasi quasi mi compro un biglietto, saluto il mondo e venderò l'America in America. Prenditi le guance, il mio sorriso non lo vedrà. Paghi al chilo, il cuore quello no. Un altro giro, prima di cambiare un'altra volta ancora. Prenditi le guance, il mio sorriso ed ora. Prenditi il tuo resto, il mio sorriso ed ora vai. Yeah, Renzo Rubino da Palazzo Pelli! Grazie. Oh, io me lo riposato e mi vado qui a stampare deficiente, eh? Senti, ma dimmela, che fai il fine settimana? Ma perché ti offre ansia, eh? No, perché ti faccio il fine settimana, quindi sto... No, perché registriamo il video con questa canzone. Lei nel fine settimana è rotonda. No, davvero, registriamo ma il video con questo pezzo. Ma puoi trovare sui migliori viali, quelli più trafficati. Ah, bella, ha detto che giriamo il video con la luce. Con queste due matte, vi saluto. Un applauso ancora adesso, Lugino. Grazie a tutti. No, per noi è stato bravo. Io volevo fare delle domande, però sono stronzo, non vorrei rispondere. Allora, parlate, Claudia Melani DJ, Diana, Mirage, qua. Un applauso. Grazie, grazie Amada, I love you so much. Allora, fare gli auguri anche a Renzo. Lupino perché è il tuo compleanno, giusto? Ah, è vero, sì. Happy birthday to you. E poi a Ramona, che sarà da qualche parte in versione borghese. Ciao, lo so dove sei, però non ti indico. Ramona, che compie gli anni, la nostra amica. Auguri! In realtà è Tommaso, tanti auguri Tommy. E poi chiunque altro faccia gli auguri oggi. Ora basta, mi sono rotta di coglioni, vuoi mettere sto disco? Claudia, mi fai ballare di Francesca, le donne, carine. Ciao, Costanza! Costanza, le tette Costanza sono firmate anche da Renzo. Vero? Ti ha firmato la tinta di stasera, che carina. E Nas mi ha detto che il rossetto mi arriva in fronte. Quindi, io vado in fronte.